I carri armati, fari spenti nella notte, sotto la pioggia. Hanno lasciato strane tracce sull'asfalto, piene di sabbia. Il presidente dietro i vetri un po' appannati fuma la pipa. Il presidente pensa solo agli operai sotto la pioggia. Sotto la pioggia, come la notte di Betlemme, hanno contato nuove stelle sotto la pioggia. Dall'altra parte della strada, come una statua si è fermata una colomba. Guardo verso il cielo e da qui in basso sembra nero sotto la pioggia. Sotto la pioggia batte forte il cuore, ma la pioggia non ci bagna. E due ragazzi sotto la pioggia stanno scaldando quella colomba. E piano piano volerà sulle nazioni e le città sotto la pioggia. Sopra gli oceani e le bandiere, sopra le grandi ciminiere, la pioggia. Dall'altra parte della strada, l'ultima spada si è spezzata dentro la roccia. Sulle mie mani leggo il cielo, con un riflesso arcobaleno sotto la pioggia. Sotto la pioggia, sotto la pioggia. Sotto